Il re era nella sala della colazione. Mentre saliva l'elegante scala, l'odore del cibo diede le vertigini ad Anna perché quella mattina, per affrettarsi, non aveva trovato il tempo di mangiare. Nonostante la debolezza, attraversò rapidamente la stanza, temendo che se si fosse fermata un attimo le sarebbe mancato il coraggio. Vostra Maestà, iniziò, e di nuovo le sembrò che la sua voce provenisse da lontano. Vengo dal processo di Tuptim e sono convinta che sia innocente del crimine di cui è accusata. Ammette di aver sbagliato a fuggire dal palazzo, ma anche per questo c'è una circostanza attenuante. Ha appena detto ai giudici che prima di essere portata a palazzo era già stata promessa. Se Vostra Maestà lo avesse saputo, sono sicura che non avrebbe mai permesso alla sua famiglia di presentargliela. Insiste nel dire che Kun Prapalat, l'uomo a cui la sua famiglia l'aveva promessa e nella cui cella è stata trovata ieri, non sapeva della sua fuga né chi era. So che sembra improbabile, ma Vostra Maestà è troppo intelligente per escludere la possibilità che ciò che è improbabile sia possibile. Dice che sia trattato di una coincidenza che Chao Kun Sa l'abbia affidata a Kun Prapalat. Se è vero, Chao Kun Sa lo deve sapere. È una dichiarazione che si può controllare e dice che lei e Prapalat sono innocenti di ogni relazione che non sia quella di allievo e maestro. E anche questo si può controllare. Non vuole, Vostra Maestà, chiedere al tribunale di sospendere la tortura fino a che siano esaminati altri testimoni? O ancora meglio, considerando le circostanze, non sarebbe disposta, Vostra Maestà, a perdonare la ragazza e il prete? Sono così convinta della loro innocenza che mi sento giustificata nel chiederle di impedire che giustizia non sia fatta, dal momento che Pia Prom non è obiettivo e un processo equo è impossibile. Lo sforzo era stato troppo. La sua voce si affievolì e le mancarono le forze e sprofondò a terra, vicino alla poltrona del re mezzo svenuta. Chiedo perdono a Vostra Maestà. Il re la guardò con gli occhi socchiusi, che brillavano come quelli di un uccello. Lei è pazza, disse. Le lanciò un'occhiata fredda, piena di sospetto, e poi si sporse in avanti e le rise in faccia. Lei balzò in piedi come se il re l'avesse schiaffeggiata. Raccogliendo le forze, si diresse tremante verso una colonna e vi si appoggiò a guardarlo. In quel momento lei scorse qualcosa di ripugnante in lui, qualcosa di diabolico che non aveva mai visto prima. Non gli interessava la verità sul caso di Tuptim, nemmeno che il prete fosse innocente. La sua dignità se n'era andata, inghiottita dal bisogno bestiale di saziare con il sangue l'orgoglio ferito del maschio rifiutato. Anna fu presa da un orrore inesprimibile. Era stupefatta e sorpresa, sia di ritrovarsi ancora tremante, aggrappata al pilastro, sia della malvagità che aveva letto nel cuore del re. Non riusciva né a pensare né a parlare e si girò per andarsene. Ma il re aveva letto quello che era scritto sul suo viso. Il disgusto che vi aveva visto lo aveva riportato alla normalità e subito fece uno dei suoi caratteristici voltafaccia. Signora, ordinò, torni indietro, accolgo la sua petizione. La donna sarà condannata a lavorare in una risaia per il resto della sua vita. L'uomo è libero. Invierò la mia decisione in tribunale tra alcuni minuti, non c'è bisogno che ritorni. Non riuscì nemmeno a ringraziarlo. Si sentiva ancora debole e andò a casa a riposare. Il rumore della folla la spinse ad affacciarsi alla finestra. Si sorprese nel vedere che stavano montando due palchi davanti a casa sua. Alcuni operai portavano dei pali e delle strane macchine agli ordini di alti ufficiali. Numerosi uomini, donne e bambini si erano riuniti ad ammirare lo spettacolo. La folla sembrava molto eccitata. Anna chiamò la cameriera e le chiese la ragione dei preparativi. Lei riferì che un Parachik, un prete colpevole, e una Nang Ham sarebbero stati esposti e torturati quel pomeriggio come esempio per tutti. Il re aveva ancora cambiato idea. Anna pensò freneticamente che cosa poteva fare, ma al palazzo non era rimasto nessuno a cui rivolgersi. Il signor Knox, il console inglese, avrebbe potuto aiutarla, ma era andato a Moulmein a sistemare una controversia. Il viceconsole americano era un mercante locale senza influenza e il console francese, l'odiato Obare, era in mare. Anna guardò i palchi sentendosi impotente. Cos'era andato storto? Cosa? Solo molti mesi più tardi seppe che subito dopo che lei era uscita, a re erano stati portati i resoconti di entrambi i processi. Quando li aveva letti, si era infuriato contro Anna, oltre che contro la concubina e il prete. Aveva ordinato che i due siamesi venissero torturati e poi giustiziati, ma non aveva trovato altro modo per punire Anna che far montare l'impalcatura per la tortura sotto le sue finestre, e aveva giurato vendetta contro ogni persona che in futuro avesse osato opporsi alla sua volontà. Anna pensò di scappare lungo il fiume e di rifugiarsi dai missionari. Sarebbe stato difficile, ma non impossibile, anche se la folla era già fitta. Ma per quanto desiderasse scappare, non poteva pensare di abbandonare Tuptim. Non c'era niente da fare se non avere compassione e pregare per lei, ma non poteva lasciare la ragazza soffrire da sola. Un po' prima delle 3 vennero portati gli strumenti di tortura che furono sistemati vicino ai palchi. Ben presto le trombe suonarono annunciando l'arrivo del re e del suo seguito. Amazzoni vestite di scarlatto e oro presero posto nelle torrette per sorvegliare le signore dell'harem. All'improvviso dalla folla si levò un grido, mentre Tuptim, tranquilla, senza aiuto, saliva sul palco a sinistra. Era quello più vicino alla finestra di Anna. Le finestre erano chiuse, ma vedeva chiaramente attraverso le tende e vide il prete che si voltava per guardare Tuptim con un'espressione di amore e di dolore. Le mani della ragazza, non più incatenate, erano raccolte sul petto. Guardava serenamente la folla che sciamava vicino per godersi lo spettacolo. Se le vittime avessero urlato, avrebbero risposto con feroci grida bestiali, ma qualcosa nell'atteggiamento della ragazza li calmò. Anna sentì che la serenità di Tuptim ispirava un'involontaria soggezione. Alcuni, che evidentemente credevano nella sua innocenza, si prostrarono davanti a lei come se fosse stata una martire. Anna non riuscì a distogliere gli occhi dalla minuscola figura con la sciarpa che sventolava nel vento come una coraggiosa bandiera rossa. Fascino e orrore la tennero dietro le finestre. Le trombe suonarono, la folla era tranquilla mentre il carnefice saliva su una piattaforma per torturare Tuptim. I colpi presero a cadere. Adesso la sua schiena era rossa non solo per la sciarpa che si agitava nella brezza. Dapprima parve che l'angoscia fosse troppa da sopportare. Quasi si voltò verso il palco del re. Il corpo della ragazza si agitò involontariamente mentre cercava di nascondere il viso tra le mani, ma quasi immediatamente, con un supremo sforzo di volontà, si drizzò di nuovo e la sua voce riecheggiò nella piazza come una campana d'argento dal tocco profondo. Non ho peccato, Kumpra Palat non ha peccato, siamo innocenti, il sacro Buddha in cielo lo sa. Appena tacque, stramazzò in avanti con un grido acuto che trafisse Anna come una spada. La ragazza giacque priva di sensi finché 2 medici la fecero ritornare in sé in modo che la tortura potesse riprendere. Ancora una volta la sua voce risuonò: «Non ho peccato! Kumpra Palat non ha peccato! Il sacro Buddha lo sa!» Uno dopo l'altro, tutti gli strumenti di tortura vennero usati per strappare una confessione a Tuptim, ma ogni tortura, ogni colpo non dimostravano altro che il suo incomparabile coraggio. Non confessò nulla, non chiese perdono, affrontò i persecutori, i giudici e il re con la forza della sua innocenza. L'onore del prete era per lei più prezioso della sua stessa vita. Le ultime parole che Anna sentì furono: «Tutta la colpa è stata mia. Io sapevo di essere una donna, lui no». Dopo Anna non udì né vide più nulla. Non si rese conto della sua stanchezza, ma non aveva più forza per sopportare la scena che aveva luogo davanti alle sue finestre e perse conoscenza. Quando si svegliò, in casa non si muoveva nulla. Stesa sul pavimento, debole e spettinata, vide la stanza riempirsi di ombre. Fuori non si sentiva rumore. Passò qualche minuto prima che ricordasse perché era lì. Poi, con timore, si tirò in ginocchio e guardò fuori. Il palco non c'era più e nella piazza non era rimasto nessuno, il sole era calato. Strinse gli occhi per vedere il giardino davanti alla casa, era avvolto da una fitta nebbiolina piena di vapori. Un silenzio terrificante, una quiete mortale. Alla fine scorse una figura che scivolava nel buio verso di lei. La cameriera non era nei paraggi, perciò scese lei stessa e tolse la catena per far entrare Fim. La schiava era venuta in segreto per raccontare ad Anna la fine di Tuptim e di Palat. Per ordine del re erano stati condannati al rogo. Nessuno dei due aveva confessato niente e alla fine La tortura era stata sospesa per paura che li privasse della vita prima che venissero appiccate le fiamme. Fim raccontò ad Anna che la folla era soggiogata e che nessuno più li derideva. A poco si erano levati bisbigli contro i due preti spioni. Sotto le fitte sopracciglia, gli occhi lucidi della schiava si accendevano mentre narrava l'ultima immagine della sua padrona, avvolta dalle fiamme, con le mani mutilate tese verso l'alto, che gridava fievolmente ma con chiarezza, in modo che tutti potessero udire: «Sono pura! E anche il prete, il mio signore Palate, è puro! Queste dita non hanno fatto mentire le mie labbra! Il sacro Buddha in cielo giudicherà me e i miei accusatori». Il dolore di Fim fu profondo e duraturo. Doveva la vita al coraggio dimostrato dalla sua padrona. Fino alla fine Tuptim aveva rifiutato di coinvolgere altri nella sua fuga. Ogni 7 giorni la schiava offriva fiori freschi e candele profumate nel punto in cui Tuptim e il prete avevano sofferto, credendo che le loro anime al tramonto vi si soffermassero ancora. Dopo la morte di Tuptim, Anna non vide il re per un mese. Era partito quasi subito per Ayuthia, dove gli abitanti stavano erigendo un tempio a cui lui stesso aveva contribuito. Al suo ritorno trovò suo fratello, il secondo re, molto malato, e lui si recava spesso al suo palazzo, che si trovava sul fiume a quasi 2 chilometri di distanza. Per il resto del tempo era occupato con i preparativi della tonsura del figlio Chulalongkorn, che dovevano avvenire con grande sfarzo. Ma un giorno convocò Anna. Lei non si era mai sentita così fredda, così dura, così incapace di perdonare come in quel giorno di dicembre, quando ancora una volta entrò nella sala della colazione. Il re mostrò di non accorgersi dei modi di lei, ma non appena la vide riprese la loro precedente conversazione come se niente l'avesse interrotta. «Provo molto dolore per Tuptim», affermò, e Anna vide che era vero. Il suo viso era sinceramente afflitto. «Adesso credo nella sua innocenza. Ho fatto un sogno. Vedevo Tuptim e Palat che galleggiavano insieme in uno spazio immenso. Lei si è piegata a toccarmi sulla spalla, dicendomi: "Siamo senza colpa. Siamo sempre stati senza colpa e puri sulla terra. E guarda, adesso siamo felici." Dopo aver parlato così, è scomparsa dalla mia vista. «Provo molto dolore, ma'am, molto dolore, e rispetto per il suo giudizio. Ma le nostre leggi per questi crimini sono severe. Ma adesso che farò erigere un monumento alla memoria di Palat e Tuptim». E lo fece. A Wat Saket, nel punto in cui erano morti, per ordine del re furono eretti 2 kedis alti e slanciati. Su ciascuno c'era l'iscrizione: «Il sole calerà e sorgerà di nuovo, ma i puri e coraggiosi Palat e Tuptim non torneranno più sulla terra». Poiché il re credeva che il ciclo senza fine della nascita e rinascita terminasse solamente con il raggiungimento del nirvana, Nippam, queste parole testimoniavano la sua convinzione che Tuptim e Palat fossero sfuggiti alla reincarnazione grazie alla loro purezza. 32. La morte del sommo sacerdote. Una sera un gruppo di paggi arrivò di corsa nella stanza in cui Anna lavorava da sola, nella parte più fresca della scuola. Il re la voleva vedere immediatamente al Wat Rachapradit. Aveva imparato a non farsi attendere nemmeno il tempo necessario a riordinare i libri, indossò cappello e mantello e con riluttanza si preparò a obbedire, perché sapeva per esperienza che molti di quei colloqui improvvisi potevano risultare dolorosi. Verso sera si vedevano i preti con le tuniche zafferano in meditazione, che camminavano lentamente avanti e indietro sui sentieri di ghiaia tra gli alberi e i cespugli. Ma quella sera non c'era nessuno. I paggi attraversarono velocemente il giardino del tempio e si diressero al monastero. L'edificio era in stile medievale, come il tempio era solido ed elaborato. Mentre Anna raggiungeva gli edifici monastici, il sole calava sotto un rosso orizzonte. Ampi campi di grano e viali di oleandri nascondevano alla vista la città lontana con le sue pagode e i suoi palazzi. L'aria fresca e fragrante sussurrava tra il betel e le palme da cocco che delimitavano i confini del tempio. I paggi la portarono ai gradini dell'edificio principale e le dissero di aspettare mentre la annunciavano al re. «Di cosa si tratta?» chiese, stupita di essere stata condotta in questa parte del tempio di solito proibita alle donne. «Che cosa desidera il re da me in questo luogo?» I paggi Sollevarono i palmi uniti in segno di saluto verso l'edificio e uno di loro annunciò: Il sommo sacerdote sta morendo. Anna si sedette in attesa sulle scale di pietra. Il cortile in terra battuta del monastero era molto tranquillo. Le ombre delle palme proiettate sul terreno disegnavano elaborati pizzi. Dall'edificio alle sue spalle si udivano i canti dei monaci. Mentre sedeva quieta, si lasciò trasportare dalle solenni cadenze della musica e gli affanni del giorno si dissolsero nel buio sempre più profondo. Il re le aveva parlato spesso del prete che ora stava morendo. Più di un anno prima, mentre lavorava in biblioteca, le aveva chiesto: Capisce il significato della parola Maitri, carità? Stava leggendo la prima epistola ai Corinzi. Credo di sì, rispose lei lentamente. Era perplessa perché a varie riprese nell'arco della mattina avevano parlato della religione buddista. Allora mi dica cosa intende davvero San Paolo, a che usanza si riferisce quando dice anche se do il mio corpo alle fiamme e non ho carità, non mi darà profitto? Usanza? Chiese lei. Non conosco nessuna usanza. Considerava che dare il corpo alle fiamme fosse l'atto più alto di devozione e il sacrificio più puro che un uomo potesse compiere. Esattamente, ammise il re, iniziando a camminare avanti e indietro. Ha detto bene, è l'atto più alto di devozione che si possa fare. Ma se fosse compiuto con uno spirito diverso, per ottenere fama, sarebbe ancora il più alto atto di sacrificio? Naturalmente no, è questo che San Paolo intende. Il motivo rende sacro l'atto. Ma non tutti gli uomini hanno l'autodisciplina necessaria a fare di se stessi degli esempi e una ricerca più profonda avrebbe probabilmente scoperto che le motivazioni di molti, che sono stati considerati tali, non derivavano da uno spirito puro. A volte si tratta di indolenza, a volte di irrequietezza, a volte di vanità che attende impaziente una gratificazione e con l'inganno assume le vesti dell'umiltà. No, continuò il re a grandi falcate, infiammandosi all'argomento. È evidente che San Paolo in questo capitolo, declamò come se fosse stato sul pulpito, usa con forza la parola Maitri o Maikri, come la pronunciano alcuni eruditi in sanscrito, e la spiega con l'abitudine buddista di far bruciare il corpo che veniva praticata secoli prima dell'era cristiana e che rimane inalterata in parti della Cina, di Ceylon e in Siam. Bruciare il corpo è sempre stato considerato dai devoti buddisti il massimo atto di autoabnegazione. Dare tutte le proprie ricchezze per nutrire i poveri è pratica comune in questo paese, anche tra i principi, che spesso non tengono niente per sé, nemmeno una conchiglia per mangiarci una manciata di riso. Ma la paura della carestia o della morte per fame è sconosciuta nei paesi buddisti. Si fermò a rimuginare. Conosco un uomo di discendenza regale che una volta possedeva ricchezze immense. Fin da giovane provava una pena tale per i poveri, i vecchi e i malati da venire colto da una profonda tristezza e dopo aver passato diversi anni aiutando coloro che avevano bisogno, in un attimo diede tutti i suoi averi, tutto per nutrire i poveri. Quest'uomo non aveva mai sentito parlare di San Paolo, dei suoi scritti, ma conosceva e cercava di capire nella sua completezza il significato della parola buddista Maitri. A 30 anni divenne prete. Per 5 anni aveva lavorato come giardiniere e con la conoscenza delle piante medicinali era diventato medico e curava i poveri. Ma continuava ad aspirare alla perfezione della conoscenza, alla carità e si fece prete. Questo accadde prima della mia nascita. Adesso ha 95 anni e non ha ancora trovato la verità e l'eccellenza. Il viso del re era indicibilmente triste, ma non conosco uomo più grande. Una volta, quando era giardiniere, un tale che si fingeva suo amico gli rubò i suoi poveri attrezzi. Poco tempo dopo incontrò il re e gli chiese di che cosa avesse bisogno. Rispose che gli servivano attrezzi per lavorare. Gliene vennero dati in gran quantità e lui li divise con i vicini, assicurandosi di mandare i migliori a colui che lo aveva derubato. Distribuì quel poco che gli era rimasto a chiunque ne avesse bisogno. I bisogni degli altri, non i suoi, erano l'unico motivo delle sue richieste. Adesso quest'uomo è un sommo sacerdote. Senza pensarci un attimo, farebbe bruciare il proprio corpo, vivo o morto, se in tal modo potesse vedere fugacemente l'eterna verità o salvare un'anima dalla morte e dal dolore. Mentre era seduta nel cortile del tempio, le tornò alla mente quella conversazione. Adesso quell'uomo stava morendo. La sua vita aveva attraversato quasi un secolo. Quali erano oggi i suoi pensieri? Finalmente, sulla porta sopra di lei comparve un uomo che le fece un cenno. Era vestito di bianco, in una mano aveva una candela accesa, nell'altra un giglio. Lo seguì nei corridoi lunghi e bassi che separavano le celle dei monaci. Le giungeva all'orecchio il suono di molte voci che cantavano gli inni liturgici buddisti, il buio, la solitudine, la cadenza monotona del canto, tutto combinava a produrre in lei, persona pratica, quale si vantava di essere, un'eccitazione simile alla reverenza. Mentre il paggio arrivava alla soglia di una delle celle, le sussurrò in tono di preghiera di togliersi le scarpe. Rapidamente obbedì, mentre la sua guida si prostrava con umiltà davanti a una bassa porta. Anna si curvò a scrutare con curiosità la scena dentro la cella. Il re era seduto a gambe incrociate sul pavimento. A un suo segnale lei entrò per prendere posto accanto a lui. Su un duro giaciglio di legno di circa 2 metri e non più largo di 90 centimetri giaceva il prete morente con un semplice indumento di un giallo sbiadito. Teneva le mani giunte sul petto, era calvo e i pochi capelli bianchi che erano rimasti sulle tempie erano stati tosati. Anche le sopracciglia erano rasate, aveva i piedi nudi e lo sguardo era fisso, ma non aveva lo sguardo vuoto della morte, bensì quello della contemplazione solenne. Non mostrava segno di inquietudine né di dolore. Anna era confusa e sbigottita, stava davvero morendo? A lei sembrava che stesse comunicando con una presenza spirituale. Alla sua destra c'era una debole fiamma di candela in un candelabro d'oro, sulla sinistra un vaso d'oro pieno di gigli bianchi appena raccolti. Erano offerte del re, un giglio gli era stato posato sul petto e spiccava sul giallo sbiadito della tonaca. Appena sopra il cuore aveva un rotolo di filo di cotone non tessuto, diviso in 77 filamenti, distribuiti nelle mani dei preti, i quali seduti vicini riempivano la cella, al punto che era difficile muoversi. Ogni tanto uno levava la voce per intonare un canto e gli altri rispondevano in coro. Mentre le parole familiari lo raggiungevano, l'abbozzo di un sorriso illuminava la faccia giallastra del prete moribondo. Lo sguardo rapito, che sembrava superare l'infinito, era quasi troppo sacro per poterlo fissare. Anna chiuse gli occhi, stupita. Ricchezze, posizione, onore, famiglia. Aveva rinunciato a tutto più di mezzo secolo prima per amore dei poveri e desiderio di verità, e non c'era niente in lui della vaghezza e della incoerenza di una morte delirante. Stava andando verso di essa con una calma eterna, con un sorriso di pace perfetta, parlò. A vostra maestà raccomando i poveri, e ciò che rimarrà di me sia bruciato. E quello fu il suo ultimo dono. A poco il suo respiro si fece più stentato e girandosi verso il re con enorme fatica, disse con serenità: Me ne sto andando. E subito i preti, a voce alta, iniziarono un canto. O sacro, mi rifugio in te. Ancora pochi minuti e lo spirito del sommo sacerdote se ne andò. Gli occhi erano aperti e fissi, le mani strette, l'espressione dolcemente soddisfatta. Gli occhi e il cuore di Anna erano pieni di lacrime, ma si sentiva stranamente confortata, stranamente in pace, come da mesi nel tumulto del palazzo non si sentiva. Nel pomeriggio del giorno seguente, per ordine del re, si recò al tempio di Wat Saket, dove l'ultimo desiderio del sommo sacerdote sarebbe stato eseguito. Anna obbedì all'ordine del re con enorme riluttanza. Era lì che Tuptim e Parat erano stati arsi vivi e il re aveva fatto erigere un monumento alla loro memoria. Lì sarebbe stato celebrato il rito buddista della cremazione, in circostanze che per una mente occidentale erano orribili. Non solo i morti, ma anche i vivi, spesso erano stati bruciati lì. Anna arrivò premunita di sali, protetta da molti fazzoletti e vestita a lutto di bianco. La vasta folla che si era riunita sistemò le candele, accesi i bastoncini d'incenso contro il rogo. Il grande fuoco venne acceso e diversi preti rimasero vicino per spruzzare acqua mentre le fiamme scoppiettavano verso il cielo. Ci vollero 3 ore piene prima che finisse di bruciare e quando alla fine vennero raccolte le ceneri, furono messe in una ciotola di terra perché venissero sparse nei giardini dei contadini troppo poveri per potersi permettere il concime. Questo, spiegò il re, che era andato vicino ad Anna, significa dare il proprio corpo perché venga bruciato. Questo è quello che aveva in mente San Paolo, questa antica tradizione buddista, questa completa autodedizione nella vita e nella morte, quando disse: anche se darò il mio corpo per essere bruciato e non ho maitri, non otterrò nessun vantaggio per me. 33. La tonsura del principe. Durante gli ultimi mesi del 1865, Anna si rese conto che il principe Chulalongkorn stava crescendo. I polsi sbucavano dalle maniche, il viso era meno rotondo e la bocca aveva perso la piega infantile. Era molto più alto e sottile. Il ragazzino al quale aveva iniziato a insegnare nel 1862 si stava trasformando in uomo. Tutto il palazzo era in fermento per i preparativi della prossima tonsura. Il principe aveva 13 anni e presto avrebbe intrapreso il noviziato per il sacerdozio, che ha luogo prima di compiere 14 anni. Allora i capelli e le sopracciglia gli sarebbero stati rasati, secondo la tradizione buddista. Era importante quindi che il lungo ricciolo di capelli, che non era mai stato toccato, venisse tagliato secondo il rito bramino di Sokan, prima che venisse rasato in modo meno cerimonioso. Fin dalla sua nascita, il re Mongkut desiderava che salisse al trono. Secondo le leggi del paese, la scelta definitiva del nuovo sovrano toccava ai senabodi e il più grosso timore del re era che il consiglio scegliesse il fratello più giovane, il secondo re, dal momento che c'era un forte pregiudizio sui re ragazzi, i quali difficilmente sopravvivevano agli intrighi di palazzo. Sapeva molto bene che la sua incoronazione aveva stroncato le aspirazioni dell'usurpatore, il quale desiderava che gli succedesse il figlio preferito, e temeva che accadesse lo stesso a Chulalongkorn. Fece perciò tutto quello che era in suo potere per accrescere l'importanza del principe agli occhi del paese, e una cerimonia imponente avrebbe avuto quell'effetto. Per la prima volta nella storia del Siam fu il re che si preparò a recitare la parte di Shiva, il quale aveva rasato il figlio Ganesha da cui derivava il rito di Sokan. Questo avrebbe dato maggiore importanza alla cerimonia. Ci sarebbe stato uno spettacolo teatrale, in parte tratto dalla Ramayana e in parte dai riti cambogiani. Per l'occasione il re aveva fatto adattare l'antico poema narrativo Kailasha. Tutta la corte era stata messa in moto. Per la recita erano state scelte circa 9.000 giovani donne, tra cui le concubine più belle. Da tutte le parti del regno, ragazzi e ragazze di buona famiglia erano venuti per assistere allo spettacolo maestoso. I preparativi erano così complicati che la scuola ne risentì. Le lezioni regolari avevano dovuto essere abbandonate ed erano state sostituite dalle prove dei canti, delle danze, delle recite e delle pantomime. Al centro dei giardini del palazzo era stata eretta una collina artificiale chiamata Monte Kailash. Era alta una quindicina di metri e aveva una circonferenza alla base di non meno di 100 metri. La struttura era in teak, concepita in modo che avesse vette, valli, aperture e caverne rivestite di cannicci di bambù. Una carta che sembrava metallo faceva sì che alcune parti della montagna sembrassero di rame, ottone, latta, argento e oro. Sulla cima era stato eretto un tempio d'oro con pesanti tendaggi e guglie alte 10 metri. Sopra le porte del tempio, a est e a ovest, due ruote d'argento attaccate degli specchi erano state sistemate e rappresentavano il sole e la luna. I punti cardinali della collina erano presidiati da un elefante albino, un toro sacro, un cavallo e un leone. Queste figure erano state dotate di un meccanismo in modo che ruotassero su un asse. A un certo punto, durante il rito, dovevano muoversi contemporaneamente e una pioggia di acqua sacra del Brahmaputra doveva sgorgare dalle loro bocche sul principe in piedi in un catino di marmo. Erano stati convocati gli alti ufficiali di ogni provincia e stato feudale perché partecipassero alla cerimonia. Sacerdoti da tutto il paese erano stati invitati a partecipare. Nella grande processione ogni nazione sarebbe stata rappresentata. L'ultima sera dell'anno, il 31 dicembre 1865, dei monaci scelti si riunirono nel Dusit Mahaprasat per cantare testi appropriati, mentre i bramini recitavano i loro riti particolari in una cappella eretta allo scopo. Per i 3 giorni iniziali la procedura fu la stessa. Il mattino era dedicato ai servizi religiosi dei 2 gruppi di preti, mentre nel pomeriggio il principe veniva trasportato in palanchino in un lungo giro attraverso i giardini del palazzo fino al Dusit Mahaprasat. Lì lo attendeva il re e insieme offrivano candele e incenso davanti alle effigi. Poi, con lo stesso palanchino, il re e il principe ripercorrevano la stessa strada. La processione era esattamente come aveva voluto il re. Davanti c'erano coloro che portavano gli ombrelli d'oro, i ventagli ed enormi parasoli d'oro, poi 400 amazzoni in verde e oro schierate con le loro armature. Dietro camminavano 12 ragazze vestite d'oro con fantastiche acconciature ornate di pietre preziose che danzavano al gentile ritmo monotono dei tamburini. Al centro del gruppo c'erano le 3 ragazze più graziose, una reggeva la coda di un pavone e le altre portavano 2 rami d'oro e d'argento con foglie e fiori rari. 2 governanti per lato vegliavano sulle ragazze. Dietro seguiva un dignitoso gruppo di bramini che portavano ciotole d'oro piene di riso arrostito, che spargevano su entrambi i lati come simbolo di abbondanza. Seguiva un altro gruppo di bramini con tamburelli che tintinnavano i movimenti. Venivano poi 2 giovani nobili, splendidamente vestiti, accompagnati dalla guardia del corpo giapponese del re con maschere terribili, armature dipinte e pantaloni a righe. Una fila di ragazzi in costume rappresentava i nativi dell'India e della Malesia, i cinesi e i siamesi erano vestiti all'inglese e alla fine i bambini reali. Chiudevano il lungo corteo 5.000 uomini con cappelli affusolati che rappresentavano gli angeli custodi che si occupavano delle diverse nazioni del mondo. Seguivano musicisti con abiti scarlatti che imitavano il canto degli uccelli, dell'acqua e della frutta che cadeva. A questo punto, su un palanchino d'oro, arrivava il principe con portamento serio e dignitoso. Indossava abiti ricamati d'oro e sulla testa aveva una piccola corona ingioiellata, una miniatura della corona che suo padre indossava nelle grandi occasioni. Alle braccia e alle gambe aveva pesanti braccialetti d'oro. Subito dietro di lui, 4 ragazze d'alto rango portavano la sua scatola di betel, la sputacchiera, il ventaglio, la spada e gli emblemi del suo rango. Ed erano seguite da altre 70 fanciulle che tenevano con riverenza nelle mani le insegne d'oro e tutto l'occorrente per un principe di sangue reale. Un esercito di bambini saltellava dietro di loro, i figli e le figlie della nobiltà, vestiti con gli abiti più costosi e coperti di gioielli. Poi la damigella d'onore, assistenti personali e concubine del re con vestiti non così vistosi come i bambini, ma incoronate con piccoli diademi d'oro e con catene d'oro e anelli di grande valore. Alla fine del corteo avanzavano gli schiavi e i dipendenti del principe. Il 4 gennaio l'eccitazione raggiunse il culmine perché era il giorno in cui avveniva la rasatura. Vicino al tempio il principe incontrò un gruppo di ragazze che tenevano davanti a lui ciuffi di palme e rami d'oro e d'argento e che lo scortarono fino alla camera interna del tempio, dove venne fatto sedere su un tappeto con frange d'oro, davanti a un altare su cui erano accese candele e offerte di vario genere. Gli venne messa in mano la foglia di una palma con iscrizioni sacre. Vennero riuniti tutti i principi, i nobili e gli alti ufficiali del governo, i preti bramini che dovevano officiare e una compagnia di preti buddisti, musicisti, trombettieri e suonatori di conchiglie. Mentre i preti intonavano i canti, un bramino mise un rotolo di cotone non filato nelle mani del principe. Le estremità vennero portate intorno alla montagna sacra e poi intorno al tempio e alla fine nella camera interna dove furono legate intorno alla testa del giovane principe. Da qui 9 fili furono passati intorno all'altare e nelle mani dei preti officianti. Gli ultimi fili che formavano un circolo dentro l'altro simboleggiavano la mistica parola Om, che non deve sfuggire nemmeno dalle labbra del più puro, ma deve essere meditata in silenzio. Il re, al culmine della cerimonia, allo squillo delle trombe, da una conchiglia versò alcune gocce di acqua purificatrice sulla testa del principe, poi consegnò ai preti bramini le cesoie d'oro e il rasoio dorato. Il lungo ricciolo che cresceva sulla testa del principe dall'infanzia fu tagliato, poi gli venne rasata la testa. L'elefante bianco, il toro, il cavallo e il leone furono riuniti e con l'acqua sacra che sgorgava dalle loro bocche il principe fu battezzato. Poi il principe fu portato in un padiglione dove donne di rango lo vestirono con altri indumenti, sempre bianchi, ma di una seta più ricca, e gli misero in capo una corona ingioiellata. Nel frattempo il re si era ritirato in un padiglione in cima alla montagna che rappresentava il palazzo di Shiva. Quando il piccolo principe fu pronto, il re ordinò ai suoi due aiutanti celesti di scendere e di condurlo sulla cima della montagna. Da occidente lo fecero salire fino al punto in cui il re aspettava per impartire all'erede la sua benedizione, poi lo presentò al popolo e tutti resero omaggio prostrandosi 3 volte. Poi il capo dei preti bramini si fece avanti per offrire cibo allo spirito del principe che, dopo aver vagato durante l'infanzia, adesso riposava nel corpo del ragazzo su cui era stata eseguita la tonsura. Il prete prese una porzione di riso dal Baisri e lo mischiò col latte di cocco prima di offrirlo al principe. Poi gli legò alle caviglie dei fili per proteggerlo. Infine, dopo aver intinto il dito prima nell'olio profumato e poi nella farina, unse il piede destro del principe con il segno di Shiva, perché è proibito toccare la testa di un principe. Il principe stesso completò il rito passando l'indice destro sul segno e poi segnandosi la fronte tra le sopracciglia, e infine il re versò sulla testa del principe alcune gocce di acqua dalla grande conchiglia. Nei 2 giorni che seguirono, continuò la presentazione dei regali e nell'ultimo giorno delle celebrazioni i capelli che erano stati tagliati furono portati in processione verso il fiume e cerimoniosamente gettati in acqua.